Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. Oggi è molto più tranquilla la puntata, non vi preoccupate, no, non do in escandescenza. Vi voglio far sentire un paio di cose riprese da 1984 di George Orwell, dove c'è il grande fratello e controlla tutto e tutti, dove tutti siamo controllati praticamente a vista, dove nessuno può pensare liberamente con la propria testa, nessuno può avere idee proprie, dove cambiano la storia, dove ci fanno vedere quello che non c'è e ci convincono che sia la realtà, sia la verità, e che ci vogliono bene e lo fanno per noi. Quindi vi lascio con questi pezzi, io spero vi stimolino e vi invoglino a leggere il libro o a guardare il film. Incredibilmente ci si può vedere cose molto molto attuali e dovrebbero far riflettere. Secondo me alcuni film, non tutti, alcuni film ci vogliono dare un messaggio, alcuni secondo me era un avvertimento, questo è secondo me come un avvertimento di quello che sarebbe potuto essere e come è adesso, come è davvero diventato, però ci hanno avvertito e non abbiamo voluto guardare, siamo stati ciechi. Perché? Perché corriamo troppo. Corriamo sempre, siamo sempre di corsa, non ci fermiamo mai a prendere fiato e a guardarci intorno. In questo pezzo che vi fa sentire ora, praticamente sono tutti radunati tipo in una sala cinematografica e gli viene fatto vedere le immagini della propaganda del Grande Fratello, in cui poi in questo punto qui gli viene detta la verità qual è, e loro si arrabbiano, provano odio verso queste parole, verso questa persona che gli dice che sono schiavi, che sono controllati, che il governo gli mente, gli fa rabbia, dà da pensare, perché è quello che succede davvero. Quando dici la verità a una persona, quella persona si arrabbia e fa di tutto per difendere quello con cui è cresciuto. Combattete per la libertà. Combattete per la vostra libertà. Resistete alla propaganda. Pensate con le vostre menti. Il partito vi ha fatto il lavaggio del cervello. Voi siete stati derubati del vostro stesso essere. Niente di quello che vi dice è vero. Niente di quello che fa il partito è buono. Ero il membro più fidato ed amato del partito interno. Vi siete fidati di me, mi avete amato, e io vi ho tradito. Non mi importano le atrocità che vengono commesse in nome mio, se il risultato sarà la distruzione di oceani. Il Grande Fratello non esiste, è un'invenzione del partito. Il partito non serve il popolo, serve se stesso. Non è affatto vero che siamo in guerra con l'Eurasia. Il partito vi fa credere che siamo in guerra per distogliervi da altre mete. Vi ha trasformato tutti in stupidi schiavi o servietti. Aprite gli occhi. sapete il male che viene compiuto su di voi. È il partito che lancia le bombe su voi, cittadini. Traditore! È il partito, non gli eurasiani, il vero nemico da combattere. Insorgete! Scrollatevi di dosso il giorno che vi opprime. Liberatevi dei vostri padroni. Sono loro che distruggono la vostra vita. Annientatevi! Non avete niente da perdere e tutto da guadagnare. Un altro esempio. Un'altra tua illusione. Parlo delle fotografie che ti diedero certe allucinazioni. Tu hai creduto di averle in mano. Non sono mai esistite. Di quello che stavi per dire, Winston. Esistono nella memoria. Io le ricordo e anche tu le ricordi. Io non le ricordo affatto. Solo una mente disciplinata può vedere la realtà, Winston. Ma occorre un atto di autodistruzione, uno sforzo di volontà. Tu hai scritto sul tuo diario: libertà è la libertà di poter dire 2 più 2 fa 4. Ricordi? Sì. Quante dita ti sto mostrando, Winston? 4. E se il partito dice che non sono 4 ma 5, quante sono? 5. No. Così è inutile. Stai mentendo. Quante sono le dita, per favore? 4. 4. Cos'altro posso dire? 5. 4. Tutto quello che vuoi, ma per favore basta. Non ne posso più. No! Che altro posso fare? Come posso negare quello che vedo davanti ai miei occhi? 2 più 2 fa 4. Qualche volta, Winston. Qualche volta fa 5. Qualche volta fa 3. E a volte sono i 3 risultati insieme. Né il passato, né il presente, né il futuro esistono di per se stessi, Winston. La realtà è nella mente umana, non nella mente individuale, la quale commette errori e perisce, ma nella mente del partito, che è collettiva e immortale. Ancora? No! Quante dita sono, Winston? 4? 4? Io penso che siano 4. Ma mi sforzerei 5. Vorrei riuscirci. Cosa vorresti? Persuadere me che ne vedi 5 o vederne davvero 5? Vederne davvero 5. Ancora. Quante sono, Winston? io lo so. Meglio. Nessuno può sottrarsi, Winston. Non esistono martiri qui. Tutte le confessioni che otteniamo sono sincere. Noi non distruggiamo l'eretico perché ci resiste. Fino a quando ci resiste, Noi non lo distruggiamo. Lo facciamo diventare uno di noi, prima di ucciderlo. Rendiamo perfetto il suo cervello, prima di annientarlo. E poi, quando non resterà che dolore e amore per il Grande Fratello, noi ti cancelleremo dalla storia. È come per la curvatura, che c'è chi dice che non c'è nessuna curvatura e non è possibile rilevarla in nessun modo, e quelli ti dicono: le barche vanno oltre la curvatura, l'ho vista dall'aereo. Perché? Perché ti è stato insegnato che è in quel modo e ti vedi quello che ti è stato detto di vedere, come in questo caso 2 più 2 è 5. Non so, a me questo film mi ha fatto tanto riflettere. Sto leggendo il libro, spero faccia riflettere anche voi. Quindi grazie a Radio Big World. Dall'Arcadia è tutto, alla prossima, ciao.